fatto arrestare di bella gente, caspita, mi ha fatto arrestare, mani pulite, me lo ricordo ancora. C'è qualcuno che lui non le vuole per spaccare la faccia, ma molto di più. Oh signori, là, io vi saluto che... vado a letto, là. Ci sentiamo alle prossime. Ok? Ciao Natale, ci sentiamo, buonanotte. Stammi bene. Ciao ragazzi, domani troveremo la neve. Invece stanno dicendo siamo indignati, siamo qua, siamo là. Ma gli altri che cosa? Se chi sei malato, non comprende chi su chi va, si poteva dire su una persona che ragionava una cosa del genere. Ecco, non so se tu hai visto quel personaggio che mi spacca il nome adesso, come fa a rompere le palle ai giornalisti. Quello a un certo punto si è fatto invitare anche circa l'anno scorso in parecchie televisioni, parecchi show, dicendo che quelle cose non avrebbe fatto più, ha perso, è stato intervistato a voi, ha perso la sua autorità e sta ritornando adesso in questo periodo. Ma chi è quello che fa lo stilista, come si chiama? La striscia la bottiglia, queste cose così. No! Quello che va a disturbare i giornalisti già, con la striscia la notizia, come si chiama quello che non è migliore una pugna faccia ai giornalisti, ma la sinistra vuole dare in giù, ma il giornalista fa ricorre di cosa? E buco, non ricordo come si chiama, già lo so, gioca ho capito chi è. Già giocavi. E vabbè, comunque. Hanno visto che la notorietà era finita, quindi hanno ricominciato la cazzo. Vabbè, è normale, no? È normale. Ma che si vuol fare? Se la vita. Ci hanno fatto chiedere perdono, quando tutto il show, a chiedere soprattutto perdono a Emilio Fede, che non sarebbe più intervenuto nei suoi giornalisti quando fanno le interviste fuori a fare quelle cose, ha chiesto scuse che non avrebbe fatto più, si ritirava da questa cosa qua, non avrebbe fatto le palle più a nessuno. Invece da voi che è stata la sua da pigliare, la buttava a macchia, chi un poco di telegiornale, un po' di nome, un po' che è, era sempre tra la missione, poi hanno dimesso lei adesso, si è ritornata la carica, la grande, ma se ritenevi a quella non è buona vita. E poi è poco esposto quello lì, mi sembra tranquillo, ma parolacce, hanno fatto vedere certi spezzoni dove diceva parolacce ai giornalisti, quelli che leggono il telegiornale, insomma un po' tutti prendono il bavuto. E quello si incontra terribile. Allora non è un po' verità, quando si incontra pure, è da ridere, non è che si fa ridere. Senza scarpe quando si incazza. Oh, ma quello è un pezzo di merda. Mamma mia, cazzo. Una volta per qua c'era la festa di San Gavino a Polo Torres e ne è arrivato con queste due stangone a fianco, ma buoni baroni. Deve essere che è tipo che ci sa fare con le donne e cose, anche se non è un bel tipo, perché bello non è. Aveva due stangone, sembravano le guardie del corpo suo, è arrivato a questa bancarella e ha detto ci fa tre panini con Wuster e questo e quella. Quello lì ha preso, le ha messi nel piatto, ha detto quanti che devo dare? No, niente, niente, no, non mi dica, no, niente, per voi è gratis. Non gli ha fatto pagare nulla, magari un po' baraccio che va a farmi una suggestione, chiedere uno gratis, se non rimane, ma quello le mancava proprio i soldi, no? E infatti queste cose sono anche un po' simpatiche. Infatti, vabbè, magari l'ha fatto per far vedere che in Sardegna era un ospitale, capito? E vabbè, ma non è che lo stesso un po' l'ospitalità, E vabbè, comunque, girava in mezzo alla folla perché era periodo delle elezioni e cose, sta facendo propaganda elettorale, girava in mezzo alla folla con questi due, richiedevano gli autografi, questo e quell'altro. Mettiamo il davano, via, povergare. Antonio, viaggia. Parla pure tu, aiuti. Io penso che sia un atto che non si possa fare. Sarebbe indietro. No. Secondo me dicono che è malato, ma secondo me è visto qualche cosa la comprende. Disgarga. No, quello il fatto di sulla cultura con la statuetta, cosa è a faccia per tutto. Ah, anche chi ce ne scorda non sono finito da 3 ore. Vabbè, tu mi dici. No, negativo. No, negativo, dai. zappa. Per ieri. Boh, che Paolo che fino a fare? Riprendere il prendere altro da. Eccomi. No, sto seguendo una cosa che mi stavo dicendo qua. Se c'è questo è il grande fratello che è stato uscito il comporto adesso che ci aveva tre amanti assieme, dai. Tre amanti? Sì, fuori nella vita normale. Adesso è uscito il comporto, sono uscite queste tre fidanzate diverse. Che storia. Oh, yeah. Vabbè, ogni tanto se ne sa una di cose. Quello della vita di quello là mi ha fatto male, poveraccio, che doveva con questa nonna ripicchiava, lì, maltrattata. Alla madre si è messa a gridarle, ma dove eri quando io venivo picchiato da mia nonna? Dove eri tu? Eri in giro per tutto il mondo. E lei c'era andata in Costa Rica, capito? Perché c'è una cosa che mi ha fatto girare un po' le palle, ma lasciamo perdere così. Cosa? Non ho capito tanto. Rimasto un po' al discorso di poco fa, perché c'è una cosa che mi ha fatto girare un po' le palle. Cosa? Ti ho su io cosa? Non ti posso rispondere, se non capisci che cosa. Ma riguarda che cosa? Riguarda il discorso che stavo facendo? Interessante che si scopra di noi. No, è un discorso completamente diverso, te lo dico. Va bene, vediamo un pochettino, fammi sapere di lui cosa c'ha. Posso sapere? Di lui che cosa c'ha. Dice che sta male il gatto. Gattina. Ho trovato, però un po' il freddo. Non c'è una febbre, non per fa. È un po' bollente, già era. Ma sicuramente c'è un po' che più di influenza l'altro giorno. Cavagava. Vabbè. Non c'è manco che cosa da darle, no? E adesso già l'ho messo in caldo, là. Una previsione, diciamo. No, non darle niente, no, senza sapere cosa devi gridare. Il gatto non è un cristiano. Sì, c'è il musetto un po' umido come la freddata. Forse c'è la fredda, adesso ho messo il caldo. Beh, sicuramente la freddo, la pizzicato burrai, ma... Sì, no, ma adesso già... Per il passo tutto, adesso ho messo il calduccio. E vicino alla stufa sta bene. Guarda, è un fiasco di vino. Sì, domani torno a prendere. Non c'è altra cosa. Ti dico, fermo un errore, dopo 15 giorni stavo già camminando. La prenda non è una giocata, la prendo per vinto. Adesso cosa mangi? Oggi non c'è niente, basta asciuttare un piatto. Ho somigliato un paio di ghisi. Dallo frigo lì, ho somigliato un paio di ghisi. Ma quando è successo ieri questo o oggi? No, poco fa, poco fa. Ah, cavagato. Chissà cosa cacchio c'è. No, ma il gatto è così, se ci ha preso il testa di stomaco, beh, ci ha fatto provocare lui. Ma infatti, anche l'altro giorno l'ha fatto col pollo, l'ha mangiato, è con di dura. Da poi la sa, infatti ha vomitato, perché lei quando mangia troppo in fretta, non lo volevo tripigliare, chissà cosa, non si. Eppure mangia di due volte al giorno, no? Sono api, gli anche a te ti succede. La mattina quando mi metto il pollo, lo mangi per il pollo, cavolo, che li copro, perché a lui piace il pollo, pesce, oppure fegato di manzo, tacchino del pollo, pesce, orate dell'oceano, e poi gli piace il coso. E li metto, quando li metto il pollo si tuffa, proprio lo mangia avidamente. Così fa lì, eppure guarda, delle volte ha anche già mangiato, allora gli butteva il cazzo, non ti lascia un tempo, ne vuole, miau, miau, miau, e vuole. E fa l'avvia e poi fa così, sta male. Adesso oggi, eravamo qui così, cazzo poco fa, li ha mangiati talmente veloce che non li ha masticati, li ha succhiati in pratica, ha lasciato male. Oh, yeah. Succede a noi per pasta, oggi c'era la pasta, fatto pasta di olio, non sapevo cosa fare, e qui c'è la pasta di olio col peperoncino, ma me l'ho mangiata con un gusto, e ne ho mangiato troppo perché, non è solo la volta che lo mangiavo prima, me l'ho mangiato troppo, ho detto, allora basta. Aspetta, è la febbre. La febbre è passata lì. La moglie? E allora? No, siamo a 38 e qualcosa, stasera, 38 e 8 mi pare. Ancora? E io. Ci ha messo, ha preso la pastiglia di tachipirina. Ah, speriamo che li abbassi adesso. Era così anche stasera perché si è mangiata davanti a me. Solo che si alza e quello lì che mi fa male. Si alza dal letto, gli ho detto. Adesso non parecchi giorni. No, lì è venuta per la papa, poi è passata e poi è tornata di nuovo. E appunto dico adesso parecchi giorni, è passata e poi la ricaduta brutta. Ma poi l'ero male anche questo buon cazzo di tempo con non recuperare di niente. Un giorno c'è sole, cazzo che è caldo, un giorno c'è vento. Sai cos'è? Che l'altro giorno, il giorno dopo che gli è passata, aveva la riunione, una riunione di lavoro, quindi lì uscita, c'era vento, freddo e coso, e la bifica del chilo. Quello male allora, male. La fregata, capito, perché è uscita, lei non doveva uscire, anche se è una riunione importante, perché vengono da fuori e cose, sono personaggi, diciamo, di un certo livello, e quando ci sono quelle persone lì loro ci tengono ad andare perché spiegano la cosa in una maniera diversa, tutta diversa da come ne la fanno normalmente. E vabbè, sono su voi però, quando se ne deve fare meno se ne fa meno. Beh. Ma sono queste cose qui, sono tipo sette religiose, non si fanno gli applausi tra di loro, tu devi vedere anche con l'altra che ci aveva di vita, devi vedere tutta la scenografia che c'è, la musica, la presentazione, le sfilate dei personaggi, eccetera, eccetera, è una cosa fatta tutta ad hoc, non ti credi che sia così l'acqua di rosa. Vabbè, però se riuscirò a farlo, se mi vedrò. Ah, beh, infatti, quello sì. Vabbè, lei non si immaginava nemmeno. è andata per dovere, ma sulla pizzicatore, insomma. E poi doveva portare i soldi in casa il giorno e quindi doveva andare per forza. Adesso vedere i casi che ha fatto, perché li versano e poi loro devono praticamente versare in conto, poi li fanno un assegno, perché loro i contatti non li accettano. No, io se guarda, difficilmente mi metto a letto. Dico pure che come di volte sono andato anche con la febbre. Però la tavola mi ha scontrato bene, ma cazzo mi ha messo la paura. È un virus, da quando hai qualche cosa di rosco, non te ne rendi conto, per forza. Quella volta l'ha fregato l'anno scorso, infatti l'avete dato voi. Mamma mia, ma non ce l'ha davvero, eh? Quella dolore da aver fatto, no? Se no, non mi sarei arrivato, perché a me... Però la parola anche con l'influenza tranquillamente, non è che me ne freghi più tanto. Cazzo, ma la voce, dice quel mio, come ti ha fatto? E così mi amore, quello dei reni, la schiena. Cazzo, madonna, guarda una volta mai. Ritorno, ma se mi venivano anche le scosse a tutta la persona, vedi? Non va via un pezzo che non è la droga. Sono influenze, addirittura adesso è ancora all'inizio, dice che è ancora quella che deve venire, non è ancora avvenuta. Ci sembra spaventarsi, no? Da facciamo due le cose più affettate su di. Abbiamo anche quel problema di Marco, non so se te l'ho raccontato, che una volta non riuscivano a fargli abbassare la febbre, l'ho trovato viola all'ospedale. Allora, no, non andava bene l'antibiotico. E noi stavamo dicendo, stavamo provando, e cos'è? Una cavia avevi giù, non ha giù un peso, dice, ma bisogna andare a tentativi perché una persona fa bene e l'altra no. Come te la segna di mini, se la prova. E tanto Guido si resiste, si clippa, non la butta sai, perché c'è il cognato di questo di fronte che praticamente è andato a fare una visita per il cancro della cistifelle, ma è stato in coma, hanno dovuto operare, adesso le animazioni se ne sta andando per una visita che ha fatto. 51 anni, appena andato in pensione. Ma quello dice la prima pensione. Per carità. È bello per fare. Anche la moglie non sta bene. È un tumore anche la moglie, poveraccia. È un casino qua. Non vengono mai soli, no. Hanno due pure il pila di Jaish. Quando prende quella salita brutta, non c'è niente da fare. Se non toglie neanche nessuno, quando prende la salita, la ricorda salita molto ripida, non c'è niente da fare per nessuno. Mio socio diceva che sino ai 30 anni siamo in discesa, poi comincia piano piano la salita, piano piano comincia, andiamo in salita e cominciamo tutti gli acciacchi, tutte le cose, cominciamo a invecchiare, e così è. Si prende la salita, ma comunque si può scalare quella salita, ma quando prende quelle salite ripide non c'è più per nessuno, alle volte quelle salite si interrompono molto brevemente. Sì. Ma dico, per un esame dovrà fare, dice che questi esami possono andare bene o male. E lui è andata male, poveraccio. Mamma mia, purtroppo cazzo alle volte, quando si è giovani, tocca di più, tocca sempre, ma quando si è ancora a 50 anni, una cosa terribile. Poi questo qui da ragazzino che lavora, si è andato in pensione presto perché ha lavorato tanti anni. E adesso che è in pensione, poverino. Fratello. È stato un ospedale per accertamenti, a fare gli accertamenti perché c'era dei dolori al fegato, 30 giorni che sono portato via. Io ho un cognato per pagare, un cognato che è morto, era sposato un anno la mia sorella, ha fatto un gogo, è venuta la leucemia, se ne è andato in poco tempo. Immaginati che strano. Insomma, diciamo che non è fatta fortuna da bisogna, ecco, non è stato molto lontano, purtroppo cazzo però in questi casi cosa vuoi dire, è una cosa veramente che purtroppo nel corso della vita secondo me ce l'abbiamo segnato tutti quanti. Per una scusa o per l'altra magari, no? Poi di tanto muore di trolli, sai? Oh, yeah. vabbè. Questi discorsi fanno parte della vita, qui non è che da dove ci siamo usciti per fare, adesso non me lo ricordo, dalla cosa di Berlusconi. Come ti avevo fatto a rovinò che me la giù compreso, vabbè, comunque. Me lo sto chiedendo anch'io, sono questo della Berlusconi. Se mi atterrate che se rimarrà di torno. Infatti perché cambiamo le cose, insomma, che dicimo. Insomma dai, parlando di morte, di cose, di malattie, ci siamo di femmini pure a Ah, io hai raccontami quella dell'altro. Adesso parliamo di prima prega, parliamo di sesso. Ah, che l'uomo che ancora c'è una fascia oraria un po' sono con le bambine alzate a quest'ora. Allora non mi faccio protetta. E allora? Allora abbiamo la legge bambini. No, dai. C'è Marco ancora alzato. Quello lì ce l'aveva letto sempre tardi, poi la mattina non doveva svegliarlo. E voglio di dire, Marco va a letto, sì mamma, per piacere con la sua devo bere. Ah, e dire, vai a letto. Non ti ha messo ancora il pigiama, vuoi vedere il pigiama? E lui, cazzo, sta girando e rigirando proprio dalla sorella in cameretta. Manuela, fammi usare il computer. No, Manuela, no, che tardi, cosa? Prende e si mette vicino a lì. Guarda, una cosa allucinante. Ecco. Quindi si deve fare un pure dettagli sicuramente, perché alcuni dettagli solitamente aprono per pulire la radice, ma in questo caso è per togliere. Sospendere questa cosa è un conto, ma cambio un prezzo

come se uno prendesse, come si chiama, quella droga che va, non mi viene il nome, la droga, sì, no, per quella che ti sconvolge, quella pastiglia, sì, e questo mi è venuto, quella lì non ti fa sentire la stanchezza, per dire. Va bene così, dai, io me la chiudo e me la faccio a nana. sentiamo, ciao Alto, ci sentiamo, buonanotte, che te da, che sto chiedendo anche io. Notte buona, buonas noches. Non c'è nessun problema. Tu che qua sta molto bene quando rompe le palle. Il pacchetto ce l'ha, però non lo sa come metterlo, io già lo so. Ma glielo spiegherò. Va bene dai. Ciao, buonanotte, ci sentiamo più tardi, domani è del tuo. Ciao, ciao. Ciao, ma c'è bisogno, ma è punto lo studio, ciao, ciao, buono.